Vendo tutto di Matteo Caccia. Prenotate una stanza, portate i vostri amici, preparate le valigie e settate il vostro navigatore satellitare. Venerdì e sabato siamo a Riva del Garda perché io continuo a vendere tutto, ma questa volta lo fanno anche in 5 di voi. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un clarinetto. Questa storia parla dei tipping points. Cosa sono i tipping points? Sapete, capita a tutti noi di vivere episodi minimi, godere di momenti leggeri, semplici, piacevoli, che se presi da soli non dicono nulla, ma in quel preciso momento generano conseguenze enormemente più grandi, magari tumultuose, a volte definitive. Per me tutto ha avuto inizio con l'incidente in motorino a Santorini, in Grecia, nel 1998. Mi ruppi una scapola, ero pieno di escoriazioni ed ero l'ultimo giorno di vacanza. Rimasi ricoverato all'ospedale dell'isola alcuni giorni, solo. Ma lì conobbi Violante. Questo racconto è estratto dal racconto più ampio di una pagina, ovviamente, ma più ampio, di Emanuele Vicentini, che ha 35 anni, è di Ferrara, si definisce da sempre itinerante, ama le cene con gli amici, i viaggi, i film di Fellini e quelli di Salvatore, fare tardi la notte, inventare dialoghi surreali, pianificare il suo futuro anche se più bravo con quello degli altri e inseguire le stelle. Emanuele sarà presente a Riva del Garda sabato 19, ormai mancano pochi giorni, insieme a tutti e quattro gli altri finalisti. Ci saranno loro, i loro 5 oggetti che i presenti venderanno all'asta. Il vincitore di questa sfida si prenderà il montepremi della vendita all'asta. Buongiorno a tutti, sono le 16:09 minuti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia. A Milano c'è la solita giornata orribile che c'è ormai da giorni, c'è una temperatura che sembra di essere in autunno, ma noi oggi parliamo di cose più difficili da accettare che non l'autunno in estate. Sono i momenti in cui avete presente, per anni voi avete un mito. Non è facile crearsi un mito, cioè non è che tu leggi un libro oppure incontri una persona o accendi la televisione e paf, ti diventa un mito. Se la deve creare la fiducia, no? Ha bisogno di tempo, tu devi leggere delle cose, poi ne senti parlare da un amico che ti piace, quindi dici allora forse quel tizio lì è in gamba, poi leggi un piccolo articolo oppure te ne parla un professore se è un personaggio storico, oppure leggi una cosa in giro, lo senti alla radio e piano piano il mito te lo crei, no? Che sia uno scrittore, che sia un professore magari, uno di quelli che c'è alle superiori, o che sia anche magari un comico. E se tu durante la tua vita fai una di queste cose della solista che lui non vuole che tu faccia, lui ti manda in un posto pieno di fiamme a ustionarti, a bruciarti, a carbonizzarti per l'eternità. Ma lui ti ama. Ti ama e hai bisogno del tuo 8 per 1000. Lui è Daniele Luttazzi, lui che avete appena sentito. E questo invece è un altro. And if you do any of these 10 things, he has a special place. Full of fire and smoke and burning and torture. E la cosa triste di tutto ciò è che quest'altro che sentite è più anziano di Luttazzi, c'è da prima e sta dicendo le stesse cose che diceva lui. But he loves you. Solo che le ha dette prima. E quindi non è proprio una citazione, è che proprio hai preso le stesse battute, no? Insomma, è da giorni che se ne parla. Io non parlo di attualità, quindi di solito non lo faccio, però ce l'avevo tra le mani questa cosa. E poi oggi vendo un oggetto che ha a che fare con uno dei miei miti più grandi, che si chiama Woody Allen, che voglio tenere là sul piedistallo, perché quando ti cade un mito è sempre un momento difficile. E quando lo segui per tutta la vita e arriva un momento in cui ti dici no, ma vuoi dirmi che anche lui è un pirla? Ecco, quel momento lì è sempre brutto. 800240024 oppure 349-238-6666. Oggi vorrei che voi mi raccontaste di tutti quei miti che un giorno vi sono caduti, poi cadono per i motivi più disparati, no? Appunto, leggete l'articolo su un quotidiano in cui vi dicono che il vostro comico preferito rubava le battute, oppure andate a un incontro col vostro scrittore preferito, siete in libreria e vi rendete conto che è un cretino, non è facile. Oppure sapete da un vostro amico che quel professore universitario che avevate seguito con tanto ardore è un imbecille pure lui. Ma anche, capita anche con i cantanti, no? Uno sente le canzoni, se le gira in testa, le dedica alla propria fidanzata E poi, boh, chi lo sa. Di solito capita quando si incontrano i miti. Certo, non è facile incontrare i propri miti. Di solito succede per caso. Però, quando capita, è sempre un momento particolare. Infatti si dice sempre, cerchiamo di non incontrare i nostri miti. 800 24 0024 349 238 6666. Si parla di miti decaduti e soprattutto la volta in cui vi è caduto il mito. Che cosa avete pensato? Non per forza dovete averlo incontrato. È bastato anche solo una parola o un accenno. E quel mito lì vi è caduto. 800 24 0024 349 238 6666. Torniamo al mio mito. Lui si chiama Woody Allen. Suona uno strumento che è il clarinetto. E io un pochettino per imitarlo mi sono comprato questo clarinetto che vendo oggi. Per vederlo, visto che è bellissimo, radio24.it. Per sentire la sua storia, pronti? Via! Il clarinetto. Clarinetto, marca Buffet Campron, modello B10 in si bemolle. Fusti in resina, colore nero, ottimo per lo studio. Prodotto a Parigi nel 2005, compreso di custodia originale. Perfetto per fingere un passato da musicista o sentirsi George Gershwin. Valore commerciale 370 euro. Base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 0024. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Il clarinetto è un oggetto bello da vedersi. È per questo che l'ho comprato. Per farlo stare sul mobile. E poi ero anche un po' fan di Dylan Dog, ma questo oggi non c'entra. Quando l'ho comprato ero giovane e avevo appena visto le ultime puntate di Quelli della Notte, con Arbore, Frassica, Ferrini, Catalano e altri geni che mi avevano fatto piangere dal ridere. Il vero motivo per cui ho questo strumento in casa, però, è la Rapsodia in blu di George Gershwin. Il pezzo che Woody Allen usò per il più bell'incipit che sia mai stato scritto, quello di Manhattan. Adorava New York, la idolatrava smisuratamente. Ma no, è meglio là, la mitizzava smisuratamente. Ecco, New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata. Ecco, tutte le volte che sono stato a New York ho pensato che forse quella poteva essere la volta buona per andare a vederlo suonare al Café Carlyle, dove la leggenda vuole che Woody Allen suoni tutti i lunedì, con la sua band, la New Orleans Jazz Band. Si dice che è una tradizione talmente consolidata che quando ci fu da andare a Los Angeles a ritirare l'Oscar, Woody Allen disse che siccome lo consegnavano di lunedì, proprio lui non poteva partecipare. Alla fine poi non ci sono mai andato a sentirlo e credo di aver capito anche il perché. Deve essere per via della paura di scoprire che come musicista fa schifo. Cioè, voglio dire, già ho pochi miti. Se poi li vado a buttare giù dal piedistallo, mi frego con le mie stesse mani, no? Sarebbe stato un po' come andare a vedere un genio della letteratura provare a dipingere, ad esempio. In fondo succedeva così quando facevano le partite di calcio tra piloti e, boh, che ne so, tipo la nazionale cantante, no? Che vedevi Schumacher muoversi per il campo come una marionetta. E tutti ovviamente giù a dire quanto era forte, che era un mostro anche a calcio, quando invece probabilmente io tenevo la posizione meglio di lui. Vabbè, ok, non esageriamo, cioè, era sicuramente più bravo di me, ma da uno che è il migliore del mondo in qualcosa, fai sempre un po' fatica ad aspettarti che sia uno qualunque in tutto il resto. Cioè, uno quando diventa un mito può solo guardarlo fare quello per cui è stato creato. Un giorno, poco tempo fa, il padre di un mio caro amico che fa il musicista mi ha spiegato che per suonare il clarinetto ci vuole sia una certa tecnica, ma che la musica jazz tradizionale stile New Orleans deve essere solo eseguita, non ci vuole tanta creatività, e che lui Woody Allen l'aveva sentito e non faceva così schifo a suonare. Cioè, non era un mago, ma non ti fa nemmeno vomitare. Ecco, devo dire che anche se non l'ho mai visto, questo mi ha molto rassicurato. La prossima volta andrò a sentirlo suonare, senza troppe pretese. Tra l'altro poi c'è sta cosa di Woody Allen, che è basso, bruttino e ha gli occhiali spessi, eppure ha sempre avuto compagni molto affascinanti. Credo che sia perché lui ha saputo far ridere senza fare dimenticare le grandi questioni della vita. Alla fine è da lui, no, che arrivano frasi come «Non solo Dio non esiste», ma «Avete mai provato a cercare un idraulico durante il weekend?» Oppure ce ne sono altre «È meglio amare o essere amati?» «Nessuno dei due se il vostro colesterolo è più di 600». Ma alla fine la battuta che sento più vicina è quella che Woody Allen attribuisce al suo maestro, Groucho Marx, e che recita così: «Non vorrei mai far parte di un club che accetti fra i suoi membri un tipo come me». Ecco, secondo me, se una donna sente queste parole, capisce di avere a che fare con un intelligente, che sa che il mondo non è rose e fiori, ma che farà di tutto per sorriderle. Così, senza prendersi troppo in giro. E dici poco. Se avesse davanti uno con gli occhi azzurri e un corpo slanciato sarebbe poco credibile, no? Perché per lui la vita invece sì che è davvero rose e fiori. Ma certo, lui però può avere tutte le donne che vuole, no? La prima diceva così. Amami come se fossimo ancora in quel bar di Berlino a fumare pomo. Amami come quella volta all'esse lunga quando in preda alla fame rubammo una baguette. Questo clarinetto ho provato a strimpellarlo perché era l'unica cosa in cui potevo copiarlo, Woody. L'ho comprato a Parigi, una città che lui ha sempre amato, un po' come me. Suonarlo mi ha fatto comprendere una cosa importante. Successe quando cercavo una chitarra sulla bacheca della sala prove, dove prendevo lezioni, perché suonare questo coso per me era impossibile. Ho visto l'annuncio di un gruppo che cercava un clarinettista per una serata, visto che loro erano indisponibili, mi sono detto, eccola qua, è la mia grande occasione. Di getto mi sono proposto e ho scoperto che facevano una specie di musica klezmer, una roba che a me piaceva moltissimo al tempo. Li ho chiamati e loro erano felicissimi di avermi trovato. Io ho fatto un po' il sostenuto, ho detto che avevo suonato con certa gente che manco conoscevo e allora andava benissimo. Non c'era tempo per le prove o per i provini, quindi mi passarono i pezzi e ci vedemmo al locale la sera dopo. Io non avevo alcuna idea di come suonare quella roba, però desideravo fortissimamente stare su un palco senza essere un professionista, proprio come lui, come Woody Allen. Mi sono seduto e loro hanno cominciato belli decisi. Io li seguiti, facevo dei versi assurdi, ma mi sentivo felice. E poi, quando arrivò il pezzo dell'assolo, fu un disastro. La serata ovviamente andò in vacca e loro si trattennero dal mettermi le mani addosso. La feci franca, proprio come il protagonista di Crimine Misfatti, in cui il colpevole non viene punito, anzi alla fine prospera. Ecco, questa cosa del colpevole che non viene punito succede abbastanza spesso, solo che non ce la raccontano. Forse è meglio non farlo sapere troppo in giro, no? Ecco, è lì che ho imparato che in fondo si può fare tutto nella vita. Se va male, chi se ne frega. Basta che non sanguini nessuno, no? Woody Allen mi ha insegnato tanto, anche senza volerlo. E la cosa più importante me l'ha trasmessa il finale di Io e Annie, il film per cui gli hanno dato l'Oscar. E nel finale lui ripensa a una vecchia barzelletta e dice: sapete, quella dove uno va dallo psichiatra e dice: dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina. Il dottore gli dice: perché non lo interna? E quello risponde: poi a me le uova che me le fa. Beh, ecco, questa frase credo che corrisponda molto a quello che io penso dei rapporti tra uomo e donna. Cioè, che sono assolutamente irrazionali, pazzi, sono assurdi. Ma credo che continuino perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova. Questo clarinetto non mi ha mai fatto uova, ma è davvero molto bello. E stava perfettamente sul mio mobile che non c'è più. Eppure, nonostante la sua linea slanciata e le cose che mi ha insegnato, questo clarinetto è in vendita. Il suo valore è di 370 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se vi sono caduti dei miti e volete raccontarmelo, 16:22 349-238-6666 800240024. Il mio mito era Reinhold Messner, poi ha fatto la pubblicità a un fucile. 349-238-6666. Andiamo però a Roma a sentire Giuseppe. Pronto Giuseppe? Ciao Matteo, ciao, ciao a tutti. Buongiorno, come stai? Sto abbastanza bello casato perché la tua trasmissione, te lo ripeto, dura troppo poco, se me lo consenti. Ho sempre la sensazione che andare via prima di dare fastidio sia un valore, però boh, magari è un'idea mia, insomma. Sai, è un'idea tua, perché tu c'hai tanti di quegli estimatori che neanche lo sai. Quindi. Va bene, Giuseppe, ti ringrazio, basta, altrimenti giustamente, come sì, dice no, Paolino di là, sembra allora, una sviolinata. Dimmi. Caduto. Si chiama Nicola Piovani, che ha vinto un Oscar, come tutti sanno. Ed era un tuo mito? Certamente, perché io e lui andammo con un certo Otello Sarsi Matidini, ti parlo della fine degli anni 60, in giro per le scuole, dove ancora lui non aveva espresso questo grande talento che lui poi ha dimostrato, mm-hmm. E facciamo gli spettacoli per le scuole, in cui Otello Sarsi Matidini, chi lo conosce di nome di Scusa, me lo ripeti grande... il nome perché l'ho perso, Otello? Sarsi Matidini. Ah, non... Cioè funziona così, ci sono due categorie, burattinai e quelli che fanno le marionette. I burattini c'hanno i fili come in Sicilia, no? Sì. Dall'alto eccetera. Sì. Oh, invece le marionette sono che tu devi infilare le mani. Allora, Otello Sarzio Matitini, che è una delle parti dell'Emilia Romagna, no? Che c'è una grande scuola lì a Carpi e sì. quant'altro, lui infilava le mani sotto e faceva le marionette dietro un sipario per okay. far divertire i bambini nelle scuole. E tu cosa facevi, Giuseppe? E le scuole pagavano. Io aiutavo esattamente Otello Sarzio Matitini. Nicola Piovani che cosa faceva? Suonava al pianoforte perché bisognava dare una base okay. musicale. Okay. Lui ha cominciato così a fare musica. Okay. E in quel periodo, avendo viaggiato insieme, siamo diventati amici. A distanza di tempo, io abitavo a Monteverde Vecchio a Roma, in Vianto Giulio Barilli, e lui abitava via Poerio okay. e stava con una signora, una ragazza tedesca con cui si era sposato eccetera. Va a un certo punto conoscendolo ho detto guarda io mi voglio trasferire perché voglio andare giù a Trastevere, vendo casa, ti interessa? Dice come no, ci faccio lo studio perché ero a piano terra. Ho detto una sola condizione, il prezzo non è un problema, ci mettiamo d'accordo, eravamo già amici da anni, no? Dico i mobili della cucina qui io ci tengo molto perché me l'aveva lasciati mia madre me li voglio portare dietro, del resto non ti sarà a preoccupare, ti lascio la casa vuota. Ok. Ho detto, mi serve soltanto un mese. Dopo un mese, io lo richiamo, dice, no, ormai io ho comprato casa e mi sono anche preso i mobili della cucina. Ho detto, ma scusa un attimino, eravamo d'accordo così? Ah no, dice, ormai tu hai venduto. No, scusa, il patto va rispettato. Io questa conversazione ce l'ho su una cassetta. In che senso? Ma perché, tenuta, l'hai registrata? Scusami Giuseppe, avete parlato al telefono? Certamente. Ah, e quindi l'hai registrata al telefono? Comprare, c'è un atto pubblico di un passaggio di proprietà, quindi non posso dire bugie, non sono un mitomane e quant'altro, sì. dove c'è il mio nome e cognome come venditore e c'è il suo nome e cognome come acquirente, quindi su questo non si sfugge proprio. Senti, ma tu non dove sei in questo momento, Giuseppe? Io sono a Fregene. E non hai sotto mano la cassetta? Ce l'ho dentro una valigia in cui tengo anche molte altre cassette perché io ho fatto un lavoro anche come ricercatore, insomma c'è una storia quindi, di... Quindi da quel giorno lo posso dimostrare. Da quel giorno lo immagino, da quel giorno hai chiuso con lui? Ho chiuso con lui dicendoglielo perché lui mi continuava a dire insomma ma no perché io qui io là io ho detto senti dico Nicola guarda io non mi sono mai permesso in tanti anni di andarlo a cercare né per chiedergli un piacere né per fargli complimenti né quant'altro, è un grande musicista per carità di Dio certo, però certo, come senti, l'argomento della conversazione ti cade un mito e ci siamo arrivati nemmeno quando ha vinto l'Oscar questo mito mi è crollato tante di quelle volte perché dico è possibile che un essere umano dopo che gli ho detto che ero niente, i mobili gli è rimasta qua Giuseppe gli ho venduto una casa a un prezzo stracciato Giuseppe ti è rimasta qua, lo sento. Senti, io ti ringrazio e ti auguro di avere spero amici. Che Nicola abbia sentito questo, fateglielo sapere. Va che bene. Vedrai che sarà un bel dibattito. Va però bene. Digli al tuo direttore Fabi di raddoppiare il tempo di questa bellissima trasmissione. Va bene, Giuseppe, ti ringrazio e ti auguro amici migliori. Alla prossima. Certamente. Ciao, prossima. Grazie. Andiamo a Pavia da Carlo. Pronto? Pronto, ciao. Adesso ciao. Carlo era tipo amico di Benigni che gli ha venduto un appartamento. Carlo? Sì, eccomi. No, dimmi, raccontami qual era il tuo mito che è decaduto. No, la mia è un'esperienza assolutamente più banale. Rolling Stone, primi anni 80, sì. DX, gruppo di rock and roll molto veloce, sì. Il cui bassista era il mio mito, e appena prima del concerto vado in bagno e trovo John Doe, che era appunto il bassista, il sì. mio idolo, a fare la pipì vicino a me. Ti giuro. Ho assistito allo spettacolo con tutta un'altra passione. Grazie mille Carlo, ciao, alla prossima. Grazie a te, grazie a Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi e Paolino Corleoni. Il clarinetto è sul sito radio24.it o su Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani vendo un libro di ricette e manca solo un giorno a Riva del Garda. Valentina scrive, ho 13 anni e suono il flauto traverso, vorrei offrire i miei risparmi per questo clarinetto, offro 20 euro. Ne parliamo, scrivi a vendotutto@radio24.it Valentina. Grazie. Voi, se avete un paio d'ore, godetevi un film di Woody Allen, che ridere è sempre ridere. Love, love, love, wherever you go.